se io con un reddito lordo di 40.000 euro pago più del 50% di tasse, tra IRPEF, IRAP, che tra l'altro è contestata, contributi INPS e addizionali regionali, eccetera, e alla fine poi però non ho nessun tipo di tutela, non ho nessun tipo di welfare, non ho nessun tipo di... ho una pensione che gli indici, con la gestione separata INPS, gli indici, i coefficienti di trasformazione mi rendono come una minima dopo un percorso di 25-30 anni di contributi. È evidente che insomma da qualche parte uno deve pur tentare di campare, anche se ripeto poi è impossibile, perché per esempio su lavori come il mio non è che puoi evadere, non evadi niente, perché tu sei un costo per le aziende o per gli enti, e per cui sei fatturato dall'A alla Z.